Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Adulto, di persona che ha raggiunto il pieno sviluppo fisico e psichico. Intro breve ma concisa. Intensa, esatto. Intensa. Ciao! In ritardo. Oggi un po' in ritardo, tra l'altro bello quel pezzo di Tre allegri ragazzi morti che andate in onda prima di noi. Bello. Quasi che non me lo ricordavo più. Si chiama la sindrome di Banks. Bello, bello. Anche Eccoci. Se io una volta sono andata a vedere i Tre allegri e avevano tirato un pippone perché... volevano fare uno sketch come se fosse tipo il 92 di loro senza maschere, ma volevano che il pubblico non avesse i telefoni. Ma qualcuno l'ha tirato fuori lo stesso e loro sono incazzati e se ne sono andati per 20 minuti. È un po' boomer, sta. Quasi, però dai. ci sta. Un po' pacco. L'artista si rispetta sempre. Beh, benvenuti a tutti, cari ascoltatori. Benvenuti. Ma vogliamo ricordare le nostre coordinate? Di già, così, pronti via. Non abbiamo neanche i jingle, raga. Avevamo promesso che avremmo avuto i jingle e non li abbiamo. Ci siamo attivati per averceli, ma non abbiamo fatto il massimo. Poi diciamo. La vita esatto. È accaduta. Esatto. Esatto, e come dire, le bottiglie di vino e le chiacchiere hanno preso sopravvento, quindi non abbiamo fatto la sigla. Quindi niente jingle. Niente. Però avremo sempre la nostra siglatrice umana. Le coordinate di oggi sono... Ta-ta-ta-ta! Ogni volta diverso però il jingle. Ogni volta dipende dall'estro. Non dovremmo registrarle. No, perché forse dovremmo farla live tutte le volte. Esatto. Beh. Sono sicura di essere un talento, raga. Secondo me sì, invece, sei molto portata. Hai mai pensato di fare la sigla da grande? La valletta sì, la sigla no. Comunque, le nostre coordinate sono... Allora, se ci volete scrivere, parlare con noi, ancora non ci siamo capiti su come fare una roba collettiva, ma quindi restiamo alla chat più privata, diciamo, se volete aprire una conversazione con i vostri amici di Fuori dal Comune, allora scrivete alla nostra chat di Telegram, Telegram è il vostro posto, allora aprite la vostra iconcina blu e scrivete il contatto, @radiozam_ CHAT. Trattino basso? Sì, trattino basso. Mi dimentico sempre. No, ok. Sei stata brava. Quindi bravissima. Aprire non è un gruppo, è un account. Iniziate a scrivere con noi e ci potrete scrivere di base quello che volete. Esatto. Assolutamente. Noi più siamo ci qua. Scrivete, meglio è, più siamo felici. Noi siamo molto felici se ci scrivete. Anche perché stasera serve un sacco di interazione dal pubblico. Sì, oggi vogliamo un sacco di interazione dal pubblico, un po' perché siamo un po' stanchi perché è lunedì. Sì. E siamo tornati al nostro vecchio lunedì. Caro amico al caro appuntamento del lunedì. Era un pezzo che non andavamo in onda. Era un pezzo che non andavamo in onda i lunedì. Era anche un pezzo che non andavamo in onda in ritardo. Quindi forse le due cose sono collegate. Forse era meglio il martedì. Sì. Vabbè, comunque, se non avete Telegram, seguiteci pure su Instagram. Esatto. Fuori dal comune stava preso. Fate contenta Marzi mandandoci. Condividendo con noi i gaudi momenti di questa vostra serata, quindi non so, state mangiando... Cosa stanno mangiando stasera? Beh, allora, la zuppa è finita. La zuppa sta per finire, va comunque svuotato un po' il freezer, perché poi non ti verrà più voglia. Anzi, raga, fatelo perché sappiate che non avrete più voglia tra poco. Sarà troppo tardi. Zuppa. Accogliete questo freddino ancora che ci accompagna per mangiarvi le ultime zuppe. Se no, allora, possiamo fare una cosa bellissima live, scusatemi. Ci ha appena aggiunto su Instagram Lorelen Bertrand. Ah, è una mia amica. Grande. Yeah. Ha funzionato. Il marketing. Convertita. Bam. E questo sì che è un click. Sì, fuori dal comune stava preso, perché era vero. Sì, esatto. Quindi cosa stavano mangiando? Lo svuotafrigo, svuotafreezer, esatto. Oppure qualcuno ha appena fatto la spesa, quindi oggi magari al filettino. Secondo me esatto, un po' premium la cena stasera. La cena del lunedì che prima. No, anche l'hamburger di ceci. Io per esempio ho mangiato l'hamburger di ceci. Ma non è premium? No. Però è da lunedì. Ah, da lunedì, ok, ok. Da lunedì, okay. Ci sta, ci sta. Comunque, per chi fosse nuovo, esatto, per chi se lo stesse chiedendo, noi siamo Marghe, Fede e Marzi. Yeah! Sembra un po' quelle robe un po' tra l'adolescenza. Tra l'adolescenza e... l'adultenza. L'adultenza, esatto. Ma proprio parlando di... Esatto, oggi siamo... di introdurre il tema di oggi? Lo introduco io? Vai, scusa, volevo dire solo un'altra cosa, certo. Perché magari c'è qualcuno di nuovo. Ah, giusto. E magari giusto. C'è qualcuno che ci ascolterà in podcast. Hai ragione. E magari chi... Scusate, il momento coordinate va fatto per bene. Giusto, tutte giusto. Le coordinate. Tutte le Vai, coordinate. Tutte le coordinate. Quindi se qualcuno di voi volesse per caso, finita questo momento insieme, non dicesse, oh ma raga, ma io vi voglio ascoltare ancora, sempre. Voglio ascoltare ancora, sempre, sempre. Ci sono abbastanza podcast ormai, secondo me, per riempire una giornata lavorativa un po' ampia, quindi circa 8 ore di podcast, secondo me un po' non di male. Più secondo non me anche male. Di più not bad vabbè sono tipo no di più dai poi siamo 16 prolissi ore noi. mega prolissi quindi 16 ore di puntate le trovate sul sito di Radio ZAM e infatti noi stiamo trasmettendo a Radio ZAM, ciao, quindi, Radio ZAM. Ciao grazie sempre, sempre grazie, grazie raga per volerci qua, esatto, e quindi per non averci ancora cacciato. Oggi non fa più freddo, siamo arrivati bellissimo. In radio con la luce, è bellissimo, vi parliamo da Milano Sud e ora basta. E ora non parliamo più. E ora basta cazzeggiare, ok? Da Milano allora. Sud vi parla Federico. Sì. Bene, Federico, raccontaci perché allora, abbiamo scelto questo tema. Innanzitutto il tema della puntata di oggi è essere adulti, come avete potuto sentire dalla fantastica voce suadente della Marghe. Io sono già presa male. No. Vabbè, comunque okay. Il tema adulti perché? Perché è una cosa che ci sono stati un po' di fatti negli ultimi tempi che ci hanno detto, ah raga, forse stiamo diventando grandini. Ansia. Tipo, io ieri ho compiuto gli anni. Quindi innanzitutto tanti auguri Fede. Ho compiuto 31 anni. Tanti auguri Chicco. Che è un'età perfetta per diventare adulti forse. Sì. Poi ho cambiato casa. Direi che tu stai proprio sono già entrando esatto col mutuo sei sull'onda quanto. Quindi mi ha detto perché non parlare tra di noi ma anche con i nostri ascoltatori e o amici di questo tema che effettivamente è abbastanza interessante da capire anche com'è, cos'è l'essere adulti e capire un po' tutte le sue sfaccettature. Esatto, allora innanzitutto mi viene da dire che poniamo un po' di limiti, nel senso che l'adulthood è un comunque un costrutto sociale, cioè noi parliamo di diventare grandi, di diventare adulti quando siamo piccoli, ma cosa vuol dire diventare adulti, diventare grandi non si sa e non ve lo diremo di certo noi nella puntata di oggi, non siamo noi le persone giuste, tanto lo sapete che noi non vi raccontiamo mai nulla di vero. Esatto, tutto quello che sentite uscire dalle nostre bocche, anzi dai nostri microfoni, anzi dal vostro dispositivo esatto che da qui entra nelle esce dalle nostre bocche, entra nei microfoni e arriva nel vostro dispositivo. Va nell'etere e arriva nel che bella vostro dispositivo, bellissima. Wow. E, anzi, grazie al collettivo di ZAM. No, stiamo prestando a quelli che hanno fatto la radio proprio. Ok. Comunque. Siete stati bravissimi però a arrivare in tuo soccorso dicendo una cosa che non c'entrava niente. Grazie. Questo vuol dire essere adulti. Esatto. Aiutarsi. Allora, dicevamo, l'adulthood è un po' un costrutto sociale. Noi siamo un po' in fissa da sempre. Tutte le generazioni sono in fissa con diventare grandi, diventare adulti, smettila di fare il bambino. Oddio, sì. Non comportati cresci, da grande. Esatto. Cresci. Quanto sei immaturo. Quante donne te l'hanno detto? Quanto sono immaturo? No, non tantissime. Come questa è una classica frase da donna versus uomo che dice alle sue amiche proprio immaturo. Io l'avrò detto tante volte. No, beh, a scuola me lo dicevano spesso i professori. Bravo, ma non si applica, è immaturo completamente. Immaturo? Sembra che abbia 15 anni, invece ne ha 14. E quindi vabbè, l'adulthood è un po' un costrutto sociale. Alla fine ci sono un po' di età in cui si inizia, diciamo, per tutti la convenzione che si entri in una fase nuova, tipo a 14 anni puoi iniziare a lavorare. Legalmente, quindi un po' sei un po' adultino, no? Perché puoi iniziare a lavorare. È già una cosina. È già una cosina. A 16 puoi smettere di fare la scuola in Italia. Sì. Quindi già. Anche lì anche potresti essere un gradino in su o esatto. In giù, a destra, a sinistra. A 18, ovviamente, puoi fare una svangata di robe, bere. guidare, votare, sì, un sacco di roba. Un sacco di robe. A 21 ancora di più. Ancora di più, perché puoi votare per il Senato. Pensa te. Puoi bere sempre di più. Sì. Vai in Inghilterra, vai in America e puoi bere. Puoi uscire, puoi fare un sacco di cose. Puoi fare un sacco di cose. Poi basta. Mi sembra che poi per essere eletto al Senato mi sembra che ne devi avere 40. 40 almeno. Vabbè, però lì diventano già anni più avanti. Anni più avanti. Lì diciamo che è quasi certo che tu sia adulto. Sì, da capire. Però comunque questi sono, diciamo, gli elementi, le milestone, diciamo, a livello di età. Sì. Ti dovrebbero definire adulto. Poi quando e come tu ci arrivi lo andremo a vedere nell'arco di questa puntata, forse. Perché non saremo qua per darvi delle milestone, per darvi delle guide, ma per trattare un po' il tema e capire insieme a voi, insieme a noi, cosa pensate, cosa non pensate riguardo questi step. Tutto questo per dire che tenete i telefoni vicini, perché stasera non abbiamo l'ospite. E sono cazzi vostri. Esatto, stasera toccherà a voi. Vabbè raga, allora abbiamo fatto l'intro. Cari adulti e meno adulti, io direi di cominciare a mettere la prima traccia. E poi entriamo nel vivo. Ma infatti io sono presa male raga stasera. Ma infatti l'avete sentito il pezzo nuovo? Sì. Di chi? Della prossima artista. Posso dire che da quando si è sposato, ma mi sa quasi sul cazzo. No. Che palle, allora, che possiamo dire ai nostri... che hai. Che vita bellissima che hai, basta. E di chi staremo parlando? Di Motta. Del caro Motta. Di Motta, che si è sposato l'anno scorso, due anni fa. Con la Crescentini. E non ha smesso un secondo di ricordarlo a tutti. Tutto in bianco. Tutti Gucci. Molto belli, bellissimi. Sai che si sono sposati sulla spiaggia, no? No, ma che strano. No, mi sa che non erano sulla spiaggia. In campagna. Sì, in campagna. Vabbè ragazzi, dai. Metteremo il pezzo di Motta, la fine dei 20 anni, e vi lasciamo iniziare a lacrimare pensando a quanto non siete più giovani. Ciao. Voglio tornare a scuola. C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna. Ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei 20 anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Amico mio, sono anni che ti dico andiamo via, ma abbiamo sempre qualcuno da salvare e da baciare. Sempre qualcuno da salvare. Madonna, che depressione. Raga. No, a me piace un sacco questo pezzo. No, anche a me piace moltissimo, ma è proprio l'idea, la fine dei 20 anni. Però lui non è così... attivo. In che senso? Eh? In che senso? Cosa in che vuol senso? Dire? No, che non è molto preso bene lui, intendevo. Ah, no, no, ah, no, dicevo che non è negativo. No, non è negativo. Cioè, nel senso, la fine dei 20 anni è un po' come arrivare in ritardo, non trovare parcheggio, un po' peso. Forse abbiamo il sotto il... acceso. No, è spento. Ok, mi sentivo un po'... Okay. E, però, dai, poi parla di... della, no, no, Marzia, dell'amore. Preso male. Hai preso male? Non so, mi piace. Comunque, prima del pezzo la Marga ha detto proprio una cosa... apposta, secondo me, perché ha aperto il tema successivo, no? Cos'è che hai detto? Cos'è che ho detto? Ah, voglio tornare a scuola. Sì, di brutto, raga. Cioè, posso dire che se mi avessero detto che diventare adulti era così difficile, forse io quittavo prima. A 27 anni. Sì, sì. Io dicevo, vabbè, raga, per basta. Me è andata. Ho fatto per, tutto io, quello che io, dovevo fare. Io, ok. Basta così. E voi? No, sì, io un po'. Cioè, contenta, per l'amor del cielo, di scoprirmi ogni giorno più matura, più adulta, più responsabile. Però dall'altra, che sta coglioni. Mentendo, ovviamente, la sì. Marga sta mentendo. Che manda gli occhi al cielo. Esatto. C'è questa cosa. Modalità lamentini. Esatto. Però insomma, il primo tema che vorremmo affrontare oggi è proprio questo. Dici. Cioè, nel senso, ok, diventare adulti, però c'è tutta una fase prima del diventare adulti che è da quando si nasce al fatidico momento che ancora non abbiamo capito qual è, in cui si diventa adulti, no? Esatto. Sì, si diventa grandi. In cui si diventa grandi. Però, la prima domanda che vi faccio questa serata, io no? sono pronta. Cioè, quando eravate piccoli, sì. Quali erano i momenti, cioè, non come vi sareste immaginati da grandi, ma come, cioè, qual era il momento per voi in cui dici, ah, ok, sono diventato grande? Cioè, tu avevi tipo la Marzia e la Marghe di 5-6 anni, o di 10 anni, che dicevano, ah, divento grande quando? Fumo. Quando fumi? Sì. Okay. Io proprio collegavo l'essere adulto con le sigarette. Non con guidare o con... No, okay, no. Okay. Infatti avevo questa amica di infanzia con cui facevamo finta di fumare prendendo le... non so, tipo le matite, e quello per me era il gesto dell'essere uno dei gesti più inequivocabili dell'essere adulto. Grandi. Non truccarsi, tipo, no. No, è proprio il fumare. Il gesto della sigaretta e della sigaretta della sigaretta mi tornava alla mente, mi si collegava con un filo d'oro. Quindi con per l'adulto. Te i grandi erano dei tabagisti. Esatto. Ok, perfetto. Ok, siamo tutti vittime dei film francesi. Film francesi. Totale. Sì, sì, sì, sì. No, per me, allora, guidare abbastanza, devo dire che quando mi sono andata la prima volta al liceo in macchina con disco radio e il finestrino abbassato nonostante fosse gennaio, mi sono sentita veramente grande. Beh, un bel momento. Un bel momento, e credo di averlo fatto per tutto il quinto anno di liceo, poco prima che arrivavo abbassavo il finestrino. Gomito fuori, gomito fuori. Da e via. Il disco radio. E a fare catcalling a Legnano. Pepepe, uè, bel manzo. Tipo. Beh, è vero, anche guidare era abbastanza. Mio papà mi faceva guidare dal cancello a. Cioè, quel pezzettino, insomma, dal cancello al parcheggio, tra virgolette. Ed era un grande momento di. Grandezza. Di grandezza. Non so. Di ma adultezza. Non perché non si può dire adultezza? Forse adultità. Età adulta. Età adulta. Vabbè. Esatto. Poi che cos'altro mi faceva pensare alla adulthood? Beh, sicuramente la mia piccola si immaginava la mia grande. Sempre ho pensato a me come donna molto in carriera. Che qual era il vostro lavoro dei sogni? Cambiati diversi. Il primo che vi ricordate? Io volevo fare l'esploratrice e poi la giornalista. Ah, bello. Sì, anche io ho avuto il mio momento giornalista più là nella vita, tipo al liceo. Al liceo volevo a un certo punto, tipo in terza e quarta liceo, prima di lavorare per Asse Sempione per un'estate e scoprire non che lo faccio non più. Lo faccio mai più, esatto. E anche io ho avuto il mio momento giornalista. Prima di quello... Quindi ho fatto, diciamo, tutto il liceo, tipo fino a quasi la fine, pensando di fare la giornalista. Poi ho smesso, in ultima battuta, avevo già smesso. Prima di quello ho voluto fare per un po' la giornalista sportiva, nonostante, raga, a me dello sport poco, sapete, raga, ve l'ho già detto che il mio sogno nel cassetto quando ero alle medie era organizzare un'olimpiade. Sì, sì. Allora forse era legato a quello, che però ci arrivavi solo facendo entrando dentro il CONI oppure facendo il sindaco di una città. Quello è. E quindi poi ho detto faccio il sindaco. E quindi poi ho detto faccio il sindaco. E prima ancora, secondo me, ho avuto un grosso periodo, un lungo periodo di astronauta. Mamma mia, bello, anche tu ci sei passata. Infatti stavo per dire, infatti se vi stavo per chiedere, astronauti qui? No, non è, ci abbiamo Marzi. Io, io parecchio astronauta, cioè alle elementari, tipo quando ero molto piccola, però volevo fare l'astronauta. Però tipo in quarta, quinta elementare non saprei dirti se questo sogno è rimasto. Io avevo un'idea dell'essere grandi molto confusa, perché tipo a 3 anni, se non ricordo male, devo aver chiesto a mia madre tipo, mamma, ma quando io ho tipo 11 anni tu sei morta? Perché Oddio. Non avevo bene capito queste cose. Peso. Poi dopo, anche lì, non capivo bene che diventavi grande, quindi ti cambiava gli interessi. Quindi il mio primo lavoro era aprire un negozio di giochi, ma perché volevo giocarci io con i giochi. Beh, ovvio, ovvio. Poi ho avuto il momento pediatra, credo. Ma che bello, pediatra, cioè molto originale. Però già, ero già un po', forse un po' più grandino lì. Però il negozio di giochi... Ma perché volevi toccare i bambini? No, non lo so, volevo aiutarli forse. Volevo aiutarli a non stare male o a divertirsi, non lo so. Poi dopo ho scoperto che bisognava studiare un sacco. E ho detto fanculo la scuola. No, ho detto no raga, grazie, non penso che faccia proprio per me. E niente, quindi è molto strano. No, mi è venuto, ho avuto una folgorazione. Cioè, a proposito di bambini che pensano di fare cose da, cioè insomma, che si proiettano nel futuro. Il mio vicino di casa, no, ma preparatevi perché questo è bellissimo. Dici nome e cognome. No, non ve lo dico. Almeno rimarrà nell'anonimato. Luciano. Vabbè, chiamiamolo Luciano. Sì. Lui si vestiva, no raga, era fantastico. Tornava da scuola, pranzava, poi più o meno dalle 3 alle 5 aveva questa attività pomeridiana in cui lui si metteva cappellino di visina e paletta, quindi classico poliziotto, ok? Di quartiere. Cioè, il poliziotto stradale. Sì. E stava lì a fischiare con questa paletta e fischiava. No, ma raga, vi giuro, dalle 3 alle 5 lui in mezzo al giardino che si immaginava di essere tipo direttore di orchestra di un grande traffico a New York, non sì, so come esatto. dire, no? E fischiava. Comunque, fischiava. La polizia, cioè in generale vigili urbani e la polizia sono abbastanza popolari. Sì, però raga, cioè, questo ripeto, cioè un conto è, boh, voglio fare l'investigatopo, come li chiamo io, oppure appunto il... Cioè, il pompiere, sì, no, il vigile urbano. A dirigere guarda il che traffico. Prima che arrivasse Coso, due canne. Chi è Coso? Cosa? Chi è due canne? Dai, raga, quello di Un giorno in pretura. Prima di lui, lui sì, è lui che ha fatto Alongi. Esatto, prima di Alongi ha fatto il primo shaming sulla polizia locale. La polizia locale prima di Alongi aveva un altro standing. Esatto. Dopo tutti si sono resi conto, probabilmente. Esatto. Chissà quanti poliziotti saranno sentiti dire ma voi fate le multe. Comunque, indovinate l'età in cui lui ha smesso? No, sparatela. 10 anni. No, di più. 15. Di più. Sempre in giardino con la paletta? Sì, non è tutto dritto però il tuo. No, tanto dritto. No, poretto, cioè ringraziamo. Cioè, gli manca un Verdi, Luciano. No, non è. No, ma in realtà no. Era solo una grande passione. Magari stava facendo la gavetta. Adesso fa il poliziotto. Magari era in stage. Dai 6 anni. Ma dirigeva il traffico della via sul serio? O no, mentale. Di un giardino. Non c'era. Cioè, lui si immaginava che c'erano le mani intorno a lui, capito? Questo fine 16 anni. Boh. Cioè, comunque, dalla chat Davide dice: ciao raga, per me da piccolo l'idea di essere grande era associata al capire tutti i documenti e alla vita condominiale. Merda Davide, però forse sei peggio del Luciano. Sì, forse sei peggio del Luciano. No, hai ragione, vabbè, cioè lui non dice che lui da grande avrebbe voluto fare questo, però per lui la vita adulta chiaro. Era questa. Ma infatti poi ne parliamo Davide, sì, bravo. Tieni l'altro il tuo anzi pensiero. Davide, stai vicino al telefono, va, te lo dico. Esatto, invece il sogno del mio caro amico Loris da grande era avere un sacco di capelli e lo salutiamo perché è in Turchia che si sta ripiantando tutti quanti i capelli. Davvero? Nella testa. Ma è una gag o è vero? No, è vero. Veramente? Ciao Loris. No, ciao Loris. Mandaci delle foto che vogliamo vedere la tua nuova testa magica. Ci sta ascoltando? Sì. No, Loris. Io poi voglio sapere tutto. Dopo una volta faremo una puntata apposta sui capelli di Loris. E chiameremo Loris tutto il tempo. Va bene. Bello. Cazzo, deve fare un male. No, non che l'ho detto che non fa tanto male. Poi nel caso capiremo. Comunque, come... secondo me la top 10, senza aver cercato da nessuna parte, anzi la top 5, se la dobbiamo dire, dei lavori più popolari tra i bambini sono la maestra. Il veterinario di brutto. Il veterinario di brutto. La biologa marina. Vero. O il biologo cuoco. Marino. Il cuoco? Il cuoco secondo me tu è più nuovo. Il cuoco? Come sì? Io avrei detto il calciatore, raga. Il calciatore. Vabbè, sicuramente. Calciatore è un lavoro. Calciatore, ballerina, mettiamo una mondo categoria spettacolo, per mondo spettacolo, sport. Calciatore, ballerina, ginnastica, insegnante di ginnastica, tutte queste cose qua. E, polizia l'abbiamo già detto, militari, astronauta, pompiere, comunque, astronauta. Rientra in quella cosa lì. Beh, scriveteci la vostra. Sì, vogliamo sapere il lavoro da grande, il lavoro che avresti voluto fare. E nell'attesa... Per poi rendervi conto che lavorare fa schifo, esatto. E dovrete farlo fino ai 70 anni e vi cadranno i coglioni e non potrete fare altro che questo. Scusateci ragazzi, oggi sognando la pensione si chiamerà questa. Se volete cominciare a riparlare di Barigotti. No, che però è molto associato alla pensione a quanto pare. In qualche modo c'è un link. Esatto. Va bene, no, non smetterò di lamentarmi. Per dare una finta risposta come al solito alla prima parte, vi lasciamo con un pezzo del fantastico Lucio Corsi che si chiama proprio Cosa faremo da grandi. C'è un mistero in ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola d'Elba, ci ha lavorato una vita e poi si è stufato e le ha tirate per terra, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa. C'è un mistero in ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito chi ha colorato le conchiglie e come fanno a viaggiare per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna sull'isola del Giglio. Senza nemmeno festeggiare la fine ha deciso di tornare all'inizio, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Batti il 5 e ripartono le mani trasparenti delle onde, che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. E rieccoci. Come dice il buon Lucio Corsi, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Esatto. Anche questo è un bel pezzo comunque. Spotify me lo piazza spesso nelle mie playlist. Ma il povero Lucino Corsi ha avuto un momento di e poi si è un po'... L'estate scorsa è uscito con l'album, sì. ha fatto anche un bel po' di concerti. Lui sono stato a sentirlo al Castello Sforzesco. No, ma l'era un po' perso. No, spinge. Vabbè ragazzi, allora chiudiamo questo capitolo su insomma cose che faremo da grandi. Abbiamo un messaggio ancora collegato a quello e parla una stretta parente della Marzia, se non sbaglio. Ah, ok. Tale Barbara Rossetti. Mamma. Ma quando diventi adulto rimangono gli amici immaginari o continui ad immaginare la tua vita immaginaria come da bambini? Speriamo di sì. Beh, la chiusa è molto bella. Che domanda criptica. Gli amici immaginari. Barbara. Allora, confesso che non ho mai avuto un amico. No, non lo so. No, allora, da piccola, piccolissima, ho questo strano ricordo di me che parlavo con i miei parenti su Marte. Vabbè, insomma. Bello. Che erano là in villeggiatura. È Marte. Ah, no. Sì, era Marte, capito? Scusaci, non avevamo. E poi io credo, non so se è condizionata alla pubblicità degli MMM o cosa. Però quando ero molto piccola odiavo fare la spesa, andare a fare la spesa, e mi immaginavo quello che pensavano gli alimenti sul tapi della cassa. Ah, ok. E che cosa pensavano? Mettimi. Un film Sausage Party, tipo qualcosa del genere, un po'. Non so, io avevo sto trip. Voi avevate l'amico immaginario? No. No, amico immaginario no, avevo la copertina di Linus, se si può chiamare così, che però non è esattamente l'amico immaginario. No. Però amico immaginario no. Non credo. Sono più figlia di Linus come genere. Sì. E va sì, bene. Sì. Quindi chiamiamo qualcuno? Chiamiamo qualcuno per chiedergli qualcosa sugli adulti o qualcosa sul che voleva fare da piccolo? Cosa voleva fare da piccolo, okay, dai. Ok, vai. Vai. Chiama quel numero che ti questo ho... Questo qualcuno? Che ti ho fatto. Stiamo per chiamarti. A sorpresa? Sì. Via. Sentirete il tu. Proprio come se fossimo. Però dovremmo fare anche noi come se. Cos'è Radio 105, quella famosa che devi rispondere? Brembero! E vinci. Esatto. Vediamo se risponde. Vinci un bel cazzo di niente in questo caso, però. Questa suspense. Pronto? Ciao Dama! Eccoti! Chi è? Siamo fuori dal comune. Dava perso. Siamo fuori dal comune. Ciao Andre. Ma no raga, non stavo ascoltando. No, fa niente. Ero pronto. Nessun problema. A parte che si deve fingere in questi esatto, casi. Però abbiamo okay, delle domande per pace. Te. Come stai? Allora minchia raga, mi stavo. Aspetta, no, ho detto ma non sono in diretta. Sei in diretta, sì, sei in diretta. Ma puoi dire minchia, non ti preoccupare. Ti bippo io nel caso. Perché minchia lo dite pure voi. Esatto. Ok. No, allora, stiamo facendo una puntata. Intanto, innanzitutto, come stai? Tutto bene? Bene, sì, stavo mangiando. Bravo. Il cosa stavi mangiando? Il coniglio. Bella madonna, ma che ricco. Ma no, raga, perché l'ha fatto la nonna della Carlotta. Io mai okay. Come mi sognerei di andare a comprare un coniglio. E neanche a cacciarlo. E mangiare, ti pare. No, allora, stiamo facendo una puntata sul diventare adulti, no? E visto che tu hai fatto, sì, visto che la prima parte della puntata era sul cosa volevamo fare da piccoli, no? Io ora stavo ripensando alle elementari, io e te insieme, ma non mi ricordo qual era il tuo sogno nel cassetto. E quindi, qual era per te la cosa che volevi fare da, cioè, o il lavoro o come ti immaginavi tu da grande, ecco? Quando eravamo alle elementari. Quando eravamo piccoli, sì. Però ma poi adesso in questo momento se penso che mi sta ascoltando un sacco di gente no, un sacco sicuramente no, non ti preoccupare. Guarda, centinaia no, di persone, c'è la coda fuori sì. Per ascoltarci. Puoi dire proprio la prima cosa che ti viene in mente, anche stupida, anche finta, puoi anche inventartela. Anche perché forte l'altra cosa è che c'è la Carlotta nell'altra stanza che ha smesso una telefonata, arriva qua, mi guarda, ride e mi fai chicco, a mongola. Comunque, vabbè, da picco, adesso ora non mi viene in mente, però secondo me... Quando eravamo piccoli dicevamo che da grandi volevamo fare i pirati. Quasi grande, vedi, ecco, ci siamo dimenticati, bravo, i pirati. Sì. Tra l'altro c'è un aneddoto legato a questo che non quindi troppo... Quindi delinquenti. Sì, un po' delinquenti. Quindi un delinquenti del lago di Varese. Esatto, i bad guy del lago di Varese. Sì, però c'è anche una storia che il Dama si racconterà sicuramente, si ricorderà sicuramente, che non eravamo più così tanto piccoli e un nostro compagno di classe delle medie, tale Manuel... in terza media, no, anche lui non era proprio un fulmine, rispose al ma cosa volete fare da grandi, tipo nelle domande, sai, quando ti fanno le prove per capire in che scuola potrei andare. Lui rispose il pirata, ma serio. Beh, ma io lo amo. Quando sei bimbo un conto, no? Se dici voglio fare l'astronauta, lui aveva 14 anni e ha detto voglio fare il pirata. Ci credeva veramente? Sì. Vabbè, era insieme a Luciano, mi sa. Esatto, era insieme al tuo amico Luciano. Uno faceva... Più che altro, raga, perché a 14 anni magari inizi a vedere un po' di più il mondo e dici, cacchio, voglio fare il veterinario. Esatto. No, rimanere al pirata a 14 anni c'è qualcosa che comunque forse non va bene. Beh, comunque grazie Dama per aver detto tutti i lavori che avevamo già detto. Sì, quindi sei confermato. La nostra idea. Sì, del perché fatto avevamo fatto tipo la top 5 dei lavori da grandi. Esatto. E tu ce l'hai detti tutti così. Il veterinario, l'astronauta, il calciatore, avevamo detto. Esatto. E niente, invece ultima domanda, poi ti lasciamo continuare a mangiare il tuo coniglio della nonna della Carlotta. L'ultima domanda è: qual è per te quel momento in cui sei diventato adulto, o qual è quel momento in cui diventi effettivamente adulto, ti senti adulto? Deve venire tra 10 anni. Ok, giusto. ottima risposta. Però sì, cioè non è ancora arrivato. Okay. Quindi ti senti un po' adolescente. Sì, dai, cioè nel senso, oppure devo definire un trend, cioè si parla solo di me, oppure devo no, dire... No, per te. Quella volta in cui hai pensato, cazzo, quanto sono grande. No. No, ma è successo. Ok, perfetto. Va bene. Grazie mille, Dama, buona serata. Ciao, buon coniglio. Adesso metto su... Bravo, un ascoltatore in più guadagnato, spam. Ciao. È marketing questo, questo è marketing. Cioè, senza andare lontano, questa è la phone bank. Sì, esatto. Adesso ci mettiamo a chiamare le vecchie del vicinato. Allora signora, lei è in onda. E lei da grande che cosa voleva fare? Bene, quindi stavamo parlando del quando si diventa adulti, momento serietà. Quindi arriviamo a quel momento. Allora, qual è quel momento della vita in cui passi? Sto leggendo. Vai. Lo spartiacque tra la gioventù e l'età adulta. Sì, però non parliamo di un momento specifico. Okay. Cioè non parliamo dell'happening. Okay. Che fa avvenire la tua passata all'età adulta, ma di una serie di cose, di tratti tipici dell'essere adulto. E che quindi ti fanno dire, cavolo, avere proprio quel momento che dicevi tu prima al Dama. Dice... folgorato sulla strada di Damasco, dici, raga, sono fermi adulto. Tutti ci sono. Abbiamo preparato una lista o un listone di elementi che secondo noi sono un po' quegli elementi che sono, come dire, quei, come si dice, avvisaglie di adultezza. Vi dico quella che penso che sia più vera di questa piccola lista. Speriamo tutte. No, sì, tutte. Ah, okay. Però quella che secondo me è... Ti ricordo, Marghe, che i nostri ascoltatori non vedono la lista. Vabbè, però vi dico... Perché questa è la radio e non Canale 5! Come potete leggere alle mie spalle. Esatto. No, vabbè, allora, tra quelle che poi andremo a decantare, però tra quella più, secondo me, più rappresentativa è l'equilibrio. Cioè, per me l'adulto, o comunque l'essere adulto e responsabile, è quello che è equilibrato, quindi magari anche nel momento di difficoltà o insomma di debolezza mentale e fisica riesce a mantenere una sorta di equilibrio. Sì, anche secondo me tra quelle che tra poco vi diremo, l'equilibrio è... è quella fondamentale. Tra quelle che tra poco vi diremo. Esatto. Secondo me essere equilibrati, e per equilibrati non vuol dire... stare su un piede solo. Esatto, no, stare su un piede solo o non perdere mai le staffe o cose di questo tipo. Ma tendenzialmente equilibrati. Esatto, essere tendenzialmente equilibrati, cioè non... A un certo punto, quando non ti getti in una cosa senza pensare alle conseguenze, non inizi a prendere a martellate una macchina perché sei incazzato come una belva, non che lo fai prima, però magari, non lo so, vabbè, da adolescente magari il pugno contro la porta l'hai anche tirato. Sì, non tirare, cioè, nel senso, quei momenti di defuera un po', te li tieni un po' per te. Ma è anche un equilibrio, secondo me, della vita che fai, cioè non hai più quei mega picchi di... non è più i mega picchi, secondo me. Poi il problema è quando è il ciclo, e allora lì un po' sì. E lì sono cazzi tuoi proprio. No, no, questo non lo so. Lì c'è stata la porta. Sono gli ormoni. Esatto. Non lo so ma dire in io questo caso gli ormoni, cioè quando ci sono gli ormoni di mezzo, forse cioè l'aspetto adulto viene meno. Non lo so, in realtà viene di più, perché più cresci più ne hai, poi a un certo punto non ne hai più, però più cresci più ne hai e la vita spiegata in breve. Siamo anche dottori, ragazzi. Esatto. Vabbè, quindi l'equilibrio è sicuramente una... Poi abbiamo... Però io volevo, prima che tu iniziassi la, lista, certo. Volevo fare una premessa. La premessa è... non abbiamo più gli standard dell'adulthood di qualche anno fa, nel senso che è tutta una fake news quella che dice che diventi adulto quando fai famiglia, quando hai un lavoro, quando prendi casa. Sono tutte delle avvisaglie, possono essere tutti gli elementi, ma in realtà si parla di adolescenza prolungata o di emerging adulthood, perché uno poi si sente adulto magari molto più là nella vita, sì, che non a 30 anni. Certo, non prestabilito da un qualcosa di questi elementi. Questa è la premessa, elementi, lo esatto. Sappiamo, ne siamo consapevoli. Quindi non spingeteci, non esatto, triggerateci messaggi di più. Cattivi in chat riguardo questo. Esatto. Quindi, possiamo proseguire con la nostra lista invisibile ai più, okay, e visibile ai meno. Quindi dopo l'equilibrio abbiamo la responsabilità verso gli altri. Questo è un grande tema. Beh, sì. Cioè, la responsabilità verso gli altri è quando un po'... ci sono due, secondo me, due aspetti la responsabilità verso gli altri. Un po' quando le tue azioni hanno un effetto sulle altre persone e quindi un po' anche essere equilibrati. Cioè, certo, non sei solo tu al mondo. Ecco, realizzare che tu non sei solo al mondo. Sì, questo è molto sì, difficile. Molto nel difficile. Bene e nel male. Nel bene male, e nel male. Sì. Quindi ti devi in qualche modo prendere cura degli altri da una parte, le persone che stanno vicino a te, ma dall'altra le tue azioni hanno anche una conseguenza sulle loro vite. Quindi... Okay. Per persone che conosci o anche in generale il mondo, sì, cioè, sì, potrebbe sì, essere sì, la popolazione, i tuoi vicini di casa, cioè non lo so, adesso magari ci sentiamo più in colpa a fare la festa sul terrazzo e sai che sotto c'è sera, esatto, esatto, la famiglia o esatto, l'anziano, esatto. Okay. Forse anche perché non hai più voglia di fare festa il martedì sera. Vabbè, parla per te. Forse ho detto forse. E poi abbiamo dovere prima di piacere. Per me questo è terribile. Per me sì, questa è proprio life goal. Io non ce la faccio. Me lo ripeto da quando sono piccola, che il dovere viene prima del piacere. Ma non ci hai creduto nemmeno un secondo. Neanche un secondo. Vabbè, dai, ci sarà stata una volta in cui il dovere. Sì, dai. Sì, sì, ma raga, ma però per me è la cosa crede, più difficile del sì, mondo, sì, ma sì, delle cavolate, cioè nelle cavolate, se io so che ho tipo un pomeriggio e devo fare delle cose, stai sicuro che prima mi metterò un attimo su... Metto un attimo qua, poi faccio. Riposo un attimo gli occhi. Esatto, vabbè, le vero, cose vero, che mi piacciono esatto, di meno le metto sempre alla fine. Cioè il dovere, per me la responsabilità e il dovere, cioè il senso del dovere, a me è alzarmi col senso del dovere attaccato al collo, mi piacerebbe, guarda. Puoi tatuartelo. Esatto. Il senso del dovere invece qua, di una rosa qua, ti fai un senso del dovere sotto la guancia. Non è male, potrei. Non è male. Poi c'è un grande il grande classico essere indipendenti. Questo per me è anche un altro, Sbatti. Vabbè. Fede è morto. Raga, la puntata è finita qua. Chiuso. Sul grande classico. Ho fatto un mix tra Gerry Scotti e la Hunziker, praticamente. Esatto. Va bene. Adesso Diet Prada ci riposta. Esatto. Perché andiamo per i culi cinesi. Esatto. Fuori dal comune, mocking Chinese culture. Dai. Su, Diet Prada. Si può anche ridere. Mamma mia, oh Diet. No, però, no, mamma mia, scendi un po'. Esatto. Staged. Mi pagassero poi come esatto, la esatto, Scotti, no, va bene. Qual era il grande classico? Essere indipendenti. Essere indipendenti. Economicamente. Economicamente. Anche di tempo. Sentimentalmente. Anche a livello di trasporto. A livello di trasporto, un quelli botto, che non sono indipendenti. Mamma mia, a un certo punto faccela. Sì, trasporto sì, sì, emotivo sì, o trasporto? No, trasporto no, mezzo. Fisico. Mezzo. In mezzo. Ah, il mezzo. Ecco, mio padre, mi ricordo che, ecco, lui, secondo me, il suo spartiacque è stato il patentino. tipo, cioè, per te? Sì, sì, sì, per lui, per me. È stato tipo, fatti il patentino perché io non ho proprio più voglia di venirti a prendere. Ci sta. Io, ok, perfetto, bom. Ci sta. E quindi indipendenza. No, infatti anche i miei sono sempre stati molto, cioè, liberali, nel senso che mi facevano fare quello che volevo, non avevo gli orari per ritornare a casa. Però la cosa divertente era che tu vai col tuo motorino e tu ritorni col tuo motorino. Cioè, certo. Io credo che mia madre o mio padre non siano mai venuti una volta a recuperarmi da qualche parte. No, io sì. Tranne una volta in cui avevo sbagliato tutti gli aerei, avevo perso il portafoglio e mi sono dovuti venire a prendere tipo in aeroporto a Genova di notte. Ma perché eri sbronzo? Ma no, avevo 14 anni. Povero! Beh, io l'ultima volta che mi ricordo che mio padre è venuto a prendermi, non c'eravamo capiti. Lui era uscito senza telefono e niente, era andato da una parte, io ero da tutt'altra parte, quindi bestemmie, cose. Ci vabbè, sta, ci sta. E comunque in ogni caso era colpa tua. Chiaro, e quindi da lì mi ha detto, vabbè, sai che c'è, fatti sto patentino. Ti regalo il motorino e via. No, invece i miei genitori sono molto chiocce, quindi il motorino non ce l'ho mai avuto, perché sennò mi faccio male, cado, muoio. E però infatti per questo mi hanno sempre portato ovunque, eccetera. Poi mi sono fatta la macchina. È buono, è bravo. Si è fatta la macchina. Poi sono fatta la macchina, pagata. Il mezzo. Sapere che cosa si vuole è difficile. Grande, difficile, grande, difficile. Difficile. Allora, questo viene proprio in tarda età, sì, secondo questo, me. Questo secondo me si arriva. Tipo, io non ci sono ancora arrivato. Ah, io zero. Tu? Ma perché scuole prima sì? No, vabbè, boh, però alcune raga, cose che disagio, alcune cose, beh, alcune cose io sì. Pensavo nessuna di quelle prime, vabbè, essere indipendenti, beh io su un piede ci so stare, essere indipendente, dipendente con la macchina, il motorino, le cose ce l'ho, non indipendente 360, sì, ok, col mezzo sono indipendente, vabbè, lascia fare, riesco a viaggiare cose, da sola, cose, sì, va bene, sono tante, per tante, cioè, cose sono indipendente, però e tutto quanto, raga, it's a long way to the top, vabbè, ovvio, siamo solo all'inizio. Poi le cose hanno senso, no, questo non l'ho capito. E quando le cose finalmente hanno un senso. Mamma mia, questa, vabbè, qua questa deve è la vecchiaia, chiusura. Spam. Esatto. E quando le cose finalmente hanno un senso. Ci sei arrivata tu? buonanotte. No, perché magari eri così convinta di questa, no, qua. Ah, ok. Anche quella dopo non l'ho tanto capita. Dibattere. Ah, bella questa. Bella. Saper dibattere. Saper dibattere. Cioè avere proprio un dibattito con una persona. Uno, senza annoiare o tutti piangere gli altri. Due, senza piangere. E senza prendersela sul personale. Senza prendersela sul personale. È vero, argomentando le cose, non urlando. E, cioè, insomma, essere calmi in tutto. Io ho avuto parecchi momenti da labbrino e lacrimuccia nel dibattito, effettivamente. Anche a me viene a piangere. Perché? Sì, sempre. Poi io odio le persone che parlano troppo. Però è molto bello saper dibattere. Sì, è molto bello. Infatti, però devi averci anche una sicumera, cioè devi essere un po' sicuro anche, sì, che poi ti viene dall'età adulta a un certo punto. Sì, però per esempio nell'antica Grecia si insegnava a dibattere fin da piccoli. È vero, ma anche a scuola in America fanno quei corsi oltre a fare quelli di spelling, esatto. Oltre a fare le gare di spelling. M-A-R-Z-I-A. Marzia. Marzia. Brava! Oltre How a fare do you quelle spell cose. B. B. B. B. E. E. Federico, one point. Yes! No, e quindi anche saper dibattere in una maniera. Cioè, anche cioè proprio il saper dibattere, anche una cosa in cui non credi, ma proprio saper fare una conversazione costruttiva con un'altra persona, secondo me è molto da, sì, molto da adulti. E si attacca anche, secondo me, all'esperienza, cioè nel senso che certo. Per dare un po' un fiato alla nostra tesi che stiamo portando avanti, che l'adultità non è un momento specifico della vita, ma è una questione di esperienza, anche qua, come appunto certo. Il dibattere certo, si certo. Va più cresci, più qua. Cresce. Esatto. Beh, e infine fare la famiglia. Vabbè. Farsi una famiglia. Farsi una famiglia. Farsi una famiglia o essere la propria famiglia, trovare la famiglia. O cioè, essere, ce ne sono, un'isola. Essere un'isola. Insomma, ce ne sono tanti di aspetti, però probabilmente quando ti senti completo. Bello. Sì. Va bene. Quando, scusate, è anche quando secondo me sai amare. Ah beh, questa sì. Questa... Sai amare e sai farti amare. Ci abbiamo i violini? No, non abbiamo, no, i violini, non perché abbiamo... non abbiamo nessun jingle. Però, bello. Però questa era la nostra lista. Se vi sentite in dovere sicuramente ci siamo dimenticati di integrarla, o comunque avete un esprit da insomma suggerirci, ditecelo. Quando si diventa adulti, due punti. Esatto, altrimenti se nessuno scriverà chiameremo qualcuno alla fine del esatto. prossimo quindi pezzo. Intanto mettiamo adulti per appunto. Esatto, di Golden Years, Maggio e Memento, un pezzo bellissimo, tutto per voi su Radio Zam. Buon ascolto. Una piazza è abbastanza, la tua stanza mi placa la rabbia, mi manca la gabbia degli anni sicuri, ma oltre la nebbia padana passava una sana certezza di immensi futuri, l'ebbrezza e i concerti con gli amici giusti. Battiti fai sì che duri, battiti in periodi scuri che brutti, come saluti distrutti dal lato sbagliato dell'essere adulti, dal passo carraio che ruba minuti, sdraiato ripasso, riparto dal basso che poi tu mi illudi. Ma io quando rappo non è che mi importa tanto, ho gli occhi chiusi, mi scusi se mi isolo, vi sento un po' all'unisono, parlo a me da piccolo ed intorno solo un brivido. Da fare allo scadere, certe regole sono solo un parere, conta poco se ora serve fare il cameriere, basta non farti tacere, con quel fare da tacere, insisti per piacere, ma non farlo per piacere. Ti lascio qui, dietro e tanto poi vi vedo e non è per dispetto, ma evito i saluti, è complicato certo, ma per questo serve ricordare. Anche un momento che ci siamo conosciuti. Mamma Roma e le mancanze, che sarei partito non l'avresti detto ed io neanche, ma valora le disgrazie fino a farne nuove facce. Guarda l'ora poi si parte, la signora guarda male a caso. Io c'ho da fare per chi deve mandare la sua vita a puttane, prego presso quelle scale io passo. Dopo tutto questo tempo non mi butto, lo rifaccio, clean sheet, marcio, parto da un foglio bianco, mi ci immagino lo spazio. Dietro e tanto poi ti vedo e non è per dispetto, ma evito i saluti, è complicato certo, ma per questo serve ricordarsi anche un momento che ci siamo conosciuti. Ti lascio qui dietro e tanto poi ti vedo e non è per dispetto, ma evito i saluti. Pezzi che mette Radio Zam, ragazzi, fuori dal comune. Ah, tra l'altro ci trovate anche su Spotify. È vero, brava. Ci trovate su Spotify, trovate la nostra playlist che... Per fortuna che l'altro ieri l'ho aggiornata. Questo sì che vuol dire essere adulti e responsabili. Bravo, esatto. Bravo Chicco. Portare al termine i propri compiti prima, esatto, che qualcuno te lo ricordi. Dovere prima di piacere. Questa è una cosa grandissima quella che ho appena detto. Io mi ci ritrovo tantissimo. Sì, cioè, però posso dire una cosa. Mi stai indicando, quasi mi fai paura, ok? Sì, posso dire, però ogni tanto la gente te lo ricorda troppo presto quello che devi fare. Cioè, voglio perché dire... Perché loro sono più adulti. No, più adulti, forse, cioè, forse se non se hanno... lo sei lì stracciacazzi. Appunto. Oh, diciamolo. Va bene, dai, io direi che chiamiamo, lo chiamiamo? Chiamiamo questa persona. Vai. Proviamo. Via, proviamo. Oh, raga, potrebbe darsi che prima o poi qualcuno non ci risponda. Potrebbe essere il momento giusto. Un ruolino altissimo, altrimenti, perché tutte le persone che abbiamo chiamato fino ad oggi hanno sempre risposto. Top. Tutti pensano che siamo il... Questo secondo beep non l'ho capito. Ha fatto tipo... Okay. Corretto. Pronto? Buongiorno, qui è Enjoy. Amica, parcheggiate la macchina in doppia fila, vero? Minchia, sì. C'è la multina da pagare qua, eh? E niente, mandi pure un piccolo credito a... Facciamo una bella multina. Facciamo una bella multina qua. ora le mandiamo Liban. Ascoltando. Le mandiamo Liban. Pensavamo di averti fatto lo scherzone invece. Eh no, raga, che ero fuori, mi sono attaccato 10 minuti fa in tempo per la chiamata, però me la sentivo, avevo le vibe. Sarà quello. Avevo le vibes. Ciao qua Marzia. Stavo facendo un pessimo sugo al pomodoro e stavo pensando, ma farlo pessimo significa non essere abbastanza adulti? Sì. O esserlo abbastanza da avere altri impegni che non ti permettono di farlo? Io sono per la seconda. Posso dire un po' paraculata questa? Però io sono per la seconda. Va bene. Beh, ma essere paraculi è anche essere adulti, forse. L'adulto è paraculo, no? Sì, ma qua siete al telefono con il king dei paraculi. Allora io mi inchino, scusate. Non lo sapevamo. Innanzitutto, con chi abbiamo il piacere di parlare, sì, non l'abbiamo ancora presentato. E presentati. Dai. Oltre a... Prego, allora. si presenti. Ci introduca. Io non so come ci si presenta in radio, a parte che a me sembra di fare una chiamata con 2-3, quindi non so neanche quante persone stiano ascoltando. Centinaia. In radio ci si presenta sempre dicendo chi sei e da dove chiami. Sì. Le basi, Ok, allora, okay, top. Sono Nicolò e vengo chiamato da Bruxelles. Ottimo. Perché non hai chiamato tu, giustamente, vedi? Ma merda, è una chiamata internazionale. Ma no, dite per italiano. Chi paga? Margherita. Paga la Marghe. No, Marghe, grazie all'Europa non pagherai. No, meno male. Che bella l'Europa, raga. grazie all'Europa. Ricordiamo ma anche sempre. Con Iliad, perché ogni tanto sì, Iliad. No, okay. con tutto. Scusate, non ti preoccupare. Chiudo la parentesi. Iliad borderline. Vedi. No, vai tranquilla. Beh, comunque, allora, Nicolò da Bruxelles, raccontaci un po', quali sono, secondo te, quando si diventa veramente adulti? Madonna, quando si diventa veramente adulti? Prima parlavate dell'indipendenza. Sì, abbiamo parlato proprio dell'indipendenza. Non ne avete parlato? Sì, sì. Secondo me, una volta che uno si paga l'affitto, è in qualche modo adulto. Sì. Secondo me quello è un passo. Uh-huh. È vero. Quando si paga l'affitto con i soldi che si è guadagnato. Cioè, capito, ci stai dentro con l'affitto, le bollette... i delivery, cioè soccorsi, l'affitto e bollette, i delivery. Enjoy. Qui stiamo parlando con Radical Chic da Bruxelles, che ci dice, raga, comunque per i me delivery sono soldi. E invece, scusami, da piccolo avevi il sogno, cioè la professione nel cassetto, cioè quella che da grande diventerò, due punti. Allora, da grande diventerò... Due punti. Oddio. Ma ce l'hanno tutti? Forse no. Cioè, se non ce l'ho è grave. No, se non ce l'hai. Voi ce l'avete, raga? Sì, l'abbiamo detto prima. Ma mi spiace, ma non ci stavi ascoltando. Facciamo un piccolo recap. Marzi voleva diventare... astronauta. Io giornalista. E io volevo aprire un negozio di giocattoli. Che carino, bello negozio di giocattoli. Mm-mm. Boh, raga, inventatelo. Ecco una cosa. A un certo punto della mia infanzia mi sono preso bene con i fumetti. In particolare, io leggevo i Peanuts di Schultz, quindi Charlie Brown, sì. E Linus e similari. E quindi il fumettista, cioè, ho avuto questa parete. Bello, il fumettista. Molto bello, se non fosse che alla fine io pretendevo di inventare dei personaggi che erano palesemente copiati dai cartoni che guardavo, portavo poi questi disegni ai miei genitori. E ora in realtà sostenevano totalmente la mia autostima dicendomi che ero bravissimo, insomma un grande futuro. E poi chi ti ha spezzato l'autostima? Il copyright? O... No. Un grande futuro per la mia autostima, non per il copyright. Esatto. Ecco, se rimani in cameretta da solo avrai un successo pazzesco. E scusa, e adesso cosa vuoi fare da grande? Adesso cosa voglio fare da grande, Marco? Sì, sì. È un buon tema, raga. Cazzo, Nico, manco una domanda che ti abbiamo fatto, cioè avevi la risposta pronta. Sì, raga, ma voi avete una visione che va da qui a dopo la pandemia? Io non me la sento, francamente, ho appena deciso cosa mangiare. Ha ragione, ha ragione. Cioè, tra l'altro, no? Sono 5 minuti che io sto pagando in una chiamata intercontinentale, quindi forse. No, Marghe, c'è un numero italiano, però mi si sta bruciando il sugo, questo è un fatto. Ah, questo è un fatto. E allora, allora ti lasciamo questo. Al tuo sugo da adulto o da paraculo. Ciao Nico, buona serata. Ciao. Bene, abbiamo sentito anche il caro Nicolò da Brussels. Pensavo che stessi dicendo The Brazil. Io mi piacerebbe. Quello era intercontinentale davvero. Quello sì. Va bene. E niente, abbiamo detto allora, prima tutti quegli step un po' veri, diciamo, esatto. Era il momento serietà. Era il momento anche un po' filosofia. Sì, perché abbiamo detto un sacco di cose, ma nessuna delle quali è effettivamente, se ci pensate, tangibile. Sì. No. Ma poi non ne abbiamo approfondita mezza come al solito, per cui bravissimi. Va benissimo. Cioè, così. Viva la superficialità. Esatto. Ciao. Va bene, adesso abbiamo detto le robe serie e adesso cazzoniamo, adesso che è la parte che ci piace di più, e quindi i grandi cliché dell'essere adulto. Vai. Anche qui abbiamo la lista. Ci vuole un jingle anche qua. Vai, Marzi. I grandi cliché dell'essere adulto, presenta Marzia Giuditta Nelli. La la la la la. Come essere adulto in 5 facili passaggi. La la la la. Bellissimo. Anche questo non era preparato, esatto. No. Va bene, come raga, veramente? No, davvero, non era preparato. Credeteci, perché è così. E come potete vedere alle mie spalle è la lista in sovrimpressione. Esatto. Abbiamo pulire casa e annessi. Questo è un cliché. Questo è proprio un cliché. Io, raga, non ho il moccio, lo dichiaro. Però c'è anche un sacco di tappeti, tu. Sì, ma è apposta. Esatto. Per evitare di pulire. No, okay. Dico, sarebbe un grande sbatti avere il moccio. No, vabbè, raga, pulire pesissimo, raga. Io odio passare l'aspirapolvere, ma da quando mi hanno regalato quella senza fili, già meglio. Peso. Ma raga, soprattutto la cosa più brutta è farsi cioè comprare l'aspirapolvere. Oddio, sì, no, orrendo. Infatti me l'hanno regalata. Io ho appena comprato la lavatrice e lavastoviglie, raga. Beh, quello però già. Ecco, la lavatrice è l'unica cosa che mi tira un po' su di morale. No, zero. Marzia ha buttato gli occhi al cielo e ha detto no. Tristezza assoluta. Vabbè, allora, pulire casa e annessi, questo fatto. È il primo cliché della lista dei cliché. Marzi, questa è la tua, Fare la spesa. Raga, io ho avuto, ecco, ho quasi, un piccolo, ho quasi capitolino, una carriera su questa cosa. Sì, esiste conosco un posto. Esiste non solo food, esiste un sacco di come dire, influenzeria varia nei vari social. Da cibo. Ma Marzia. E poi esistono le spese adulte. Esatto. Questo forse potrebbe avere una sigla. Parlaci, esatto, un po' le spese adulte è un format proprio dei miei canali Instagram, dei miei canali social, cioè del mio canale social. Dei suoi canali Instagram, perché Marzia ha un botto di canali. Il mio canale Instagram principale. non quello del side project, quello. Quello certificato con neanche quello che uso per fare stalking. Che si chiama? Non si può dire. Il mio Finsta. Se fossi una vera giovane avrei un Finsta. Invece non ce l'ho. Cos'è il Finsta? Un fake Insta. Ah, è il profilo finto. Sì, i giovani veri hanno un Finsta. Io non ce l'ho, raga. Io neanche. Ma no, neanche io. Ah, ok. Però conosco gente della mia età che ce l'ha. E quindi allora, cosa ho iniziato a fare? Un po' di tempo fa ho iniziato a fotografare le mie spese, perché mi facevano ridere principalmente. Cioè, arrivavo alla cassa e dicevo: ma raga, ma dove sono finita? E si può arrivare a questo punto. E tendenzialmente è un mix di cose che non ha nessun senso, nessuna connessione una con l'altra. Io nota per fare la spesa oggi per domani, domani per dopodomani. Cioè oggi per oggi, domani per domani. E quindi nel mio carrello spesa adulta cosa c'era? Cosa c'è? Poi la pandemia ha un po' rovinato tutto, devo dire. Come tutto, tra l'altro. Come tutto. Però nel mio carrello spesa adulta di solito c'è qualcosa di frutto. tutta molto femminile, perché, già tagliata, perché gli adulti sono quelli che mangiano la frutta, anzi, esatto, quindi avevo mirtilli, fragole, molto cocco, adulti, almeno adulto. Una di queste cose molto adulto. Poi avevo qualcosa di già pronto, anche qua adulto, perché donna in carriera che non ha, esatto, quindi la zuppa pronta e la roba pronta da mettere nel forno, il sushino, quello è, robe di questo tipo. Ok. Poi avevo qualcosa a caso, tipo... Ovetto Kinder? No, quello è quello dopo. A caso, tipo un pacco di pasta, il Philadelphia, okay, il riso, random, una roba, le gallette, una roba a caso così. Okay. Che non avresti comunque mangiato in quel Che non pasto. Avrei comunque mangiato ogni tanto col sapore di dieta. Quella cosa lì. Poi sicuramente qualcosa dal banco altro. Quindi tipo cos'è il banco altro? Banco a beauty, okay. No, a beauty, tipo non so, la crema, gli assorbenti, okay, la candela, sì, cose di questo tipo. Ok. E poi Dulcis in fondo 2/1/2/3 dolci. Ok. Che poteva essere un po' di gelato. Gelato, biscotti, i brick della Nesquik, quelli col cioccolato, buonissimi, raga, quelli guilty pleasure forever. E questa era la spesa forever. Adulta. Questa era la spesa adulta. Sì, ovviamente era tutto ironico per dire che non era una spesa adulta. Certo. Però questa è la mia spesa adulta e oggi sono andata a fare una spesa abbastanza adulta. Ho preso le fragole e l'aceto bianco. L'aceto bianco, ok. Questo è adulto. Per pulire il bollitore. E allora questo è super adulto. Questa è una vera porca spesa troia, adulta, questo no? Sì, che è adulto. Che è qualcosa che sta di dieta. Il di dieta. E poi il dulcis in dulcis. Fondo. Gli zalet. Cosa Io sono una grande fan degli zalet. I biscotti quelli dei vecchi. Ah, oh. Super adulto. Mega adulti. Mega adulti. Va bene. Grazie Marzia per le tue confessioni. Poi abbiamo pagare le bollette, cosa anticipata dall'amico Nicolò. Pagare le cose giuste, sì, quindi... tipo evitare di piratare qualsiasi cosa. Io in questo mi ci risento tantissimo. Forse è un pochino più potere d'acquisto. Vabbè, il più... portafoglio più gonfio. Esatto, quindi okay. Tipo ti fai gli abbonamenti ai giornali, Netflix, compri le cose. Esatto, dici ah no, però no, lo supporto questa cosa. Oppure pago ecco, pagare Wikipedia. Però lì è già il piede nella fossa. Beh, lì quasi fare me. Charity. Io lo faccio tutti gli anni, okay. Raga. Bravo. Io ho detto quasi piede nella esatto, fossa. Esatto, tutti gli anni. Poi risparmiare, giusto? Risparmiare, investire. Raga, quelli che hanno le app per tenersi molto adulti. No, io sono un'app per gli investimenti. Vabbè, molto adulto. Sì, però io non la uso vedere, malissimo. Non per vedere quanto spendo, quanto lo spendo. Io non ce l'ho. Per aggiustare le cose. Beh, vero. Bello. Bello. Sì. Raro. Sì. Bello. Beh, il chicco infatti è adulto, sono raga. Abbastanza bravo, bravino. Programmare le vacanze, ok? Però quindi non farsele programmare, ma e non andare a caso. Anche se a me piace quell'aspetto lì e spero di portarlo avanti, ma sì, anche in età più adulta. È piratesca un po' come cosa, perché c'è il programma, cioè il decidere di non programmare è un conto. Sì. Il poi vediamo, è un'altra cosa, sì. Non andare più in ostello. Vabbè, anche questo, però ormai sono tutti belli sti ostelli. Non so, tipo io in Portogallo sono andata in degli ostelli che erano più belli di c'è sempre il borderline, c'è l'ostello gentrificato o l'ostello non gentrificato. Cari abitanti di Via Padova, sarà pieno di ostelli gentrificati. Esatto. Ah, e l'ultimo, io quoto tantissimo, anche se sono molto poco capace, non bere vino di merda. Non bere vino di merda, cioè, è una... C'è una soglia di prezzo dove... prima, allora, quando eri più piccolo, sì, io spendevo tipo €1. Grande ser da 1,90 è un classicone. Era, adesso... Ci pensi. 5, 6... Ma tu credi che sia per scelta o perché il giorno dopo hai il trapano del cervello? Posso dire che è un po' tutto? Beh, un po' per non fare figure di merda. Un po' per non fare figure di merda, che ultimamente comunque no, io mi sono sentita dire... magari apro l'altro vino e ho detto mamma mia. Infatti, ma che gente tremenda che frequenti, ma perché c'erano a un certo punto i matti folli per il vino. Comunque raga, l'altro giorno industria milionaria, trend. Comunque come quelli che a un certo punto si sono messi a farti pure le pulci sul gin. E beviti sto gin. Vabbè, io non siete adulti, siete solo antipatici. Io sabato ho ordinato da Wine Livery, delivery vari, due bottiglie di Gordon. non ne vado fiera. Non ne vado fiera, però frega, insomma. Vabbè, non però il gin quello proprio. Beh, comunque male. Ho trovato questo account Instagram che si chiama Vimbon Pochis Gay. Bello! Che fa una rece per i vini da supermercato da discount che costano poco ma che sono bevibili. Invece ci sono delle mie amiche che hanno questa app che inquadri l'etichetta. Di vino. Esatto, che ti dice quanto l'hai pagato per vedere quanto sono marcioni quelli che inviti a cena. Zia, non ne abbiamo ancora parlato, ma io sono la queen delle app. Ah, beh, dovremmo fare una puntata a riguardo allora. Io zero. Vado io a segnarla zero. Nella lista delle puntate che abbiamo ti in... Ti prego, sì, grazie. Va bene. Va bene, dai, mettiamo anche un pezzone qua. Raga, questa era la nostra lista dei cliché. Nel frattempo, Wake Up degli Arcade Fire. E non di Hilary Duff. Bella, bella, bella. Passiamo bella. Poco indie rock su questa radio, nonostante io non mi sia mai tolta la mia vibe da indie girl, no? Non l'avevamo notato. Metteremo ancora di più allora. Esatto. Va bene, dai, prima di passare al prossimo argomento. Sì. Chiamiamo? Chiamiamo. Chiamiamo? Chiamiamo. Io vado, eh. Chiama questo fantastico. O asteristico. Arriverà il giorno in cui chiameremo noi voi. Noi chi? Noi voi. Voi noi. Voi noi. No, chiameremo noi voi. Noi chiameremo voi ascoltatori. No, al contrario, voi chiamerete. Ok. Pronto. Eccoci. Buonasera. E tu togli in un momento di gaff. e tu da dove? E tu chi sei? Da dove vieni? Da Milano. E chi sei? Milano città. E chi sei? Sono Davide Buifava. Nome anche cognome. Adulto. Davide da Milano. Da zona? Che zona? Da che zona ti chiami, Davide? La zona è 8, vicino Piazzale Lotto, Viale Certosa. Davide da zona 8. Beh, Davide da zona 8, quando eri piccolo, cosa volevi fare da grande? Allora, questa è una risposta, cioè, siccome vi sto ascoltando quasi tutta la, mi sono perso i primi 10 minuti, quindi avevo già preparato la risposta, ma non sono riuscito a prepararne una. Diciamo, ricordando bene, mi ricordo il benzinaio. Bello. Perché aveva, no, ma è un motivo molto specifico. Io lo so cosa sta per dire. Perché aveva? Perché aveva un botto di contanti in tasca. Esatto. Grande! Sta male. È vero. Non l'avrei mai detto. Davvero, rarissimo comunque. È vero, sì, ma non l'avevo mai notata sta roba. Ok, il cash flow, insomma. Ti piaceva quella roba lì, quella pioggia di soldi, un po' più che altro non tanto, perché sennò dici poi, non lo so, in banca, così, però proprio come li trattava, era proprio... È vero. Sì, perché tirava fuori dalla tasca, orrotolati con gli elastici, mega trap come roba. Esatto. Sì. Cioè, è vero. I benzinai primi trapper. Sì, bello, mi piace. E niente, poi a questo punto ti chiediamo qual è quello spartiacque per te tra l'adolescenza, comunque la giovane età e quella adulta? Cioè, quella allora, volta in cui hai pensato, porca merda, sono veramente diventato adulto? O sono lì lì per... Secondo me avete proprio individuato tutti i punti in modo precisissimo, proprio quasi la psicologia dello sviluppo, li avete proprio centrati tutti. Ed è psicologo, raga, ve lo dico. Sì, li avete proprio beccati tutti, dall'indipendenza, cioè, poi dipende anche dalla fase storica. Adesso vabbè, una cosa di non c'è più bisogno di far famiglia per definirsi adulti, basta semplicemente uscire di casa e avere un minimo di indipendenza. Però secondo me diciamo, c'è una prospettiva di essere adulti quando si ha la presa di coscienza di essere di avere un impatto sugli altri. Vero. E in generale sul mondo, sull'altro, diciamo, più generale, non solo il film partner, proprio si ha un impatto nel mondo e si ha questa presa di coscienza. Secondo me quello fa l'adulto, poi con le dovute... Prendendolo con le pinze. Sì, con tutte le differenze, perché comunque... una parte di generatività che non deve essere solo quella genitoriale, però generare, cioè quella ci sarà sempre, cioè dare un segno nel mondo, mettere la propria firma, che poi può essere più come realizzazione che più diciamo qualcosa che fai per gli altri. O i figli. Sì, esatto, figli, esatto, più generativa in modo classico, mi piace lasciare il molto, segno, mi piace ecco. molto questa visione qua, perché effettivamente, cioè, se arrivi e lasci il segno, qualsiasi esso sia, cioè dall'aprire una pagina Instagram al Sì. fare un figlio, a diventare un regista conclamato e acclamato, Sì. o aprire un bar e rendere felice la tua comunità, è comunque Fare sì, un un qualcosa. qualcosa. È vero. Molto Sì, figo. questa risposta diciamo che diciamo, non è che sono c'è uno psicologo che ha diciamo, strutturato tutte le vari step di crescita dalla nascita Potevi alla fine. Ora, giocartela come tua, perché tanto chi ci ascolta non sì. saprà No, mai no, tutte beh, ma queste cose. non mi approprio, cioè io poi ovviamente l'ho rielaborato, però non, mi va almeno di dare un attimo di spiegazione. Adesso, verso dai 40, diciamo, in poi, che è, diciamo, la vera adultità, e ci sono dei dilemmi sociali in tutto l'arco della vita, dall'infanzia all'adolescenza, dove ci sono dei conflitti. E quello, diciamo, che c'è dai 40 in su è proprio quello sono stato, diciamo, della riflessione se la propria esistenza ha avuto più o meno un senso. Ok, sei Quindi stato rimarcato. secondo... Sì, sei lasciato un segno. Sì, esatto. E Va bene. quindi secondo me è quello un pochino che fa adulti, quando si inizia a capire che si deve fare prima o poi si faranno i conti, È vero. nel bene e nel male. Beh, Davide, sei stata la nostra chiamata più seria, forse. Più Interessante. Invece è divertente. professionale. E infatti, Però... infatti, hai sicuramente lasciato un segno. No, sai Davide, forse di che cosa non abbiamo parlato? Cioè, abbiamo detto del dibattito, ok, però in effetti quando dicevi adesso il conflitto con se stessi, ok, ma anche il conflitto con gli altri, forse gestire bene il conflitto ti rende un po' adulto, no? Non ho capito, scusa, il conflitto con gli altri, Cioè, conflitto con gli essere. altri. No, esatto, il conflitto in generale, cioè entrare in conflitto con qualcosa, con qualcuno e gestirlo, cioè non trovarsi a disagio perché si è in conflitto, ma in qualche modo navigare e sapere che, cioè non andare in panico perché si è all'interno di un momento di Discussione. discussione, contrapposizione tra due cose, due persone, due pensieri, Ah, tu eccetera. dici la gestione del conflitto rende Sì, adulti? sì. Sì, beh, certo. Quella secondo me già in teoria viene già Prima. dalla tarda adolescenza, già E in quando teoria dici, già. ma pa, lasciatemi stare. Sì, esatto, proprio in quel In momento quel lì. momento lì. Va bene, Sì, beh. Davide. Grazie, Davide, Grazie a voi grazie della chiamata e comunque wake up call di Hilary Duff era mille. Vero? London, Paris, maybe Tokyo. New Buona serata. Buona serata a voi. Ciao, Ciao, ciao, ciao. ciao. Bene, dopo aver sentito Davide, che Esatto. ringraziamo, London, Paris, maybe sentiamo un attimo il jingle di Tokyo. Marzia. Perfetto. E allora, entriamo nell'ultimo grande gruppo delle cose di cui volevamo parlarvi stasera. Come abbiamo detto, spesso e volentieri l'essere adulto, quantomeno in passato, forse di più, ora un pochino meno, è per alcune culture, per alcune religioni, per alcuni gruppi sociali, è diciamo, definito da dei momenti specifici, quasi proprio degli spartiacque, delle milestone, delle cerimonie che fanno sì che la persona venga riconosciuta come una nuova adulto, un nuovo membro della comunità degli adulti, Esatto, no? quando la comunità in qualche modo ti inizia a considerare come membro pensante e che ti può, insomma, sedere al tavolo degli adulti, Esatto, ma la ecco. cosa particolare che abbiamo individuato in questa piccola disamina che abbiamo fatto io, la Marghe e la Marzi è che a seconda di queste culture, riti e credenze, quest'età varia e questo momento varia parecchio. Quindi immaginatevi per dire, non so, parlando del cristianesimo, voi il debutto in società col cristianesimo lo fate ovviamente col battesimo all'inizio perché Sì, vi fanno bam, però siete troppo pupi. siete troppo, però quello effettivamente è il momento Sì, del. Sei un l'ingresso. Entri nella comunità, esatto, sei esatto. un Un Christ. proto-cristiano. Però poi con la cresima, no, con la comunione, No, vabbè, con la cresima. cresima, vabbè, comunque con la cresima effettivamente diventi maggiorenne, diciamo, di cristianità. Esatto. Cos'è, 14 anni la crisi? No, di più. No, meno mi sa. No, meno. È in prima media. Sì. Quindi 12-13 anni, cioè nel senso nel percorso classico. Sì, nella convenzionale, esatto. Diciamo. Però non è così per tutte quante le religioni, culture e tutto quanto. Perché ad esempio se dovessimo pensare al bar mitzvah dei, uh-huh, o bar mitzvah come si voglia chiamare, della religione ebraica, uh-huh, anche qua addirittura c'è una differenza fra i maschietti e le femminucce, sì, perché appunto i maschi lo fanno un pochino da più grandi e le femminucce un pochino da più piccole perché sono più mature prima, perché sono già più mature prima, e appunto qua, uh-huh, appunto anche qua celebrazione che però appunto è allineata con quella del cristianesimo, però anche qua proprio una milestone, forse per gli ebrei è ancora più, sì, forte, perché credo che sia esatto, grossa, cioè, no? Molto più forte di quello che può essere la cresima, appunto. Invece, spostandoci lievemente ad est, esatto. No, ecco, io sono morta perché facendo questa ricerca ho trovato Mulan. Sì. Cioè, allora, vi immaginate, cioè, vi ricordate quando Mulan si veste con l'abito tradizionale all'inizio del film? E all'inizio del film li raccolgono, lei va da quella cicciona. Sì, non volevo dirlo. Vabbè, questo passo non si fa fat shaming, ma ok, esatto. diet. Anda, esatto. Vabbè, insomma, quindi da questo Cerbero, perché era più cattiva che cicciona, mettiamola così, e lei aveva questo abito tradizionale, poi aveva la crocchia, i capelli fissati, vestita signorina, esatto, quella di bianco. Quello è il Guanli, quindi il tradizionale rito di passaggio cinese dall'adolescenza all'età adulta. Sì. Quindi storia, la ragazza, cioè, che veramente ha compiuto 15 anni, quindi Mulan, 15enne, stava facendo il passaggio. Ah, giusto. Guanli è per i maschi, ok. Gili e invece per le femmine. Ok, quindi Mulan sta facendo un bel Gili. Gili, esatto, okay, esatto. Vedete, se siete dei maschietti, Guanli, anche qua, però dipende dall'età, no? Se non ricordo male, Guanli quando sono un pochino più grandi, tipo intorno ai 18 anni, Gili quando sono più giovani, perché ovviamente credo che fosse una derivazione del sì, perché quando ti posso sposare. Esatto, quando, perché erano pronte per l'età da matrimonio. Esatto, mm-mm, esatto. Quindi i maschi 20 anni, le femmine 15. Esatto, esatto. Vado quindi a leggere. Anche qua appunto una differenza strana. Eh sì, qui dice proprio il momento quando potevano assumersi le responsabilità di adulti e sposare, e quindi sposarsi. Sia per i maschietti che per le femminucce. Femminucce. Esatto. Mm-mm. Poi abbiamo In Occidente. Sì. Riprendiamo il volo. Da Shanghai, Air China, atterriamo a Milano. Ah, a Milano è il 18esimo. Un altro momento che ha segnato sicuramente le nostre adolescenze erano i vari il momento dei 18esimi, no? Cringe, avete è super tutti, cringe. Tutti due, Madò. Quindi per l'Italia il 18esimo oppure per l'America i My Sweet 16. Beh, sì, cioè, Sweet 16! Esatto, non possiamo dimenticarci il programma che rese celebre questo momento. Ma vogliamo anche spendere due notte, diciamo, sul prediciottesimo. Anche sul prediciottesimo, assolutamente. Sì, quindi non il prediciottesimo ha avuto il suo boom, credo, con YouTube. Sì, esatto. Praticamente, cioè, il prediciottesimo è quello che è oggi grazie ai prediciottesimi e alla gente che mangia i vermi. Queste sì, due sono sì, le due. Esatto, esatto. Beh, buono. Ma il prediciottesimo è prima del diciottesimo o è 17 anni? No, è poche settimane prima. È come se fosse il video di è come se fosse il trailer del tuo diciottesimo. Esatto. Okay, okay. Dovrebbe essere tipo l'invito ai tuoi 18 anni. Okay. Io i miei 18 anni li ho fatti in una palestra a Gazzadaschiano. È spaccato. Sì. Io alla Fenice a Varese. Oh, pettinato tu. Beach a Busto Arsizio. Qualcosa beach. Non ho capito. Al mia beach. Al mio beach. A Busto Arsizio. Perché io ho sempre avuto la parola. Allora, adesso il fatto è che a me piace festeggiare il mio compleanno. Mi è sempre piaciuto festeggiare il mio compleanno. Ok. Sono diventata cool un po' dopo nella vita. quindi quando avevo 18 anni volevo fare la festa grande, poi avevo tanti amici e soprattutto la volevo fare fuori, la volevo fare all'aperto, perché il mio compleanno è il 12 di maggio. Ah, ma raga, non c'è mai non c'è mai stata una volta in cui al mio compleanno ha fatto bel tempo. No, io che sono nata il 26 gennaio sono molto invidiosa invece. Mai stata una volta, mai. Anzi, quando ero piccola, quelle poche volte che faceva bello, c'era sempre una bega e qualcuno aveva la comunione, quindi non poteva, doveva farsi i capelli, non poteva venire. E l'amica cadeva, non si... C'era sempre, infatti la mia famiglia così dicono sempre che io ero mega viziata per i compleanni, perché dicevo, li volevo fare la festa e tutto quanto, e poi non ero mai contenta. Ecco, oh, non mai Marzi. Contenta. E poi Marzi. Ti mettevi a piangere. Esatto. Ah. Spesso. Va bene, quindi 18esimi così, grandi limoni, quelle robe lì. Sì, sì, e poi effettivamente come dicevamo prima è anche quella cosa, sia per il My Sweet 16 sia per il 18esimo, che non so, tipo inizia a guidare la macchina, puoi votare, puoi fare un sacco di cose, quindi effettivamente... Beh, sei fuori dallo stato di famiglia. Sei fuori, cioè, puoi, no, uscire puoi uscire dallo stato di famiglia. Famiglia, quindi sì, ci sono un sacco di elementi di... Puoi andare in carcere. Beh, prima puoi andare al minorile. Poi, quindi questi sono, diciamo, come si dice, i più... Sì, quei momenti lì. Diciamo un po' più di... istituzionali. Religiosi o di credi o di riti che un po' ti... Esatto. Però qui nella nostra lista che vedete alle mie spalle... Scusate, ne dico anche un altro prima di cambiare sugli altri, che forse andava prima, che è invece in Messico e compagnia, si fa la quinceañera. Brava. Che è quando compi 15 anni. 15 anni. Vedi che però nel mondo sei adulto un po' quando cazzo voglio, sì, fai la pignatta. Ah, bella la pignatta. Vabbè, io ho sempre voluto farla. È un po' strano anche perché in diverse parti del mondo è come se le persone maturassero in maniera diversa. Tipo perché funghi. Tipo, esatto, cioè tu in America a 16 anni puoi comprare, discorso boomerissimo. Super boomer, vai. Puoi comprare, puoi guidare, puoi comprare la pistola, però fino a 21 anni non puoi ordinare una birra. Mentre sì. In Italia a 18 anni tu puoi guidare, non puoi comprarti una pistola, credo. No. Forse, perché in generale non ci si può comprare il porto d'armi. Esatto. Però a 18 anni secondo me lo puoi fare il porto. Vabbè, e puoi ordinare le birre, comprare le sigarette, fare un sacco di cose. So. Sì. Strano. Secondo me quando noi eravamo piccoli il termine era 16, non 18, per bere. È vero, era 16, è vero. Come se poi qualcuno avesse mai chiesto ma quanti anni ma hai. Sì, a me è successo tipo l'anno scorso. Adesso. Vabbè, come le sighe che ti chiedevano. Beh, alla Balda, la nostra amica che sembra molto più giovane di quello che è, tuttora le chiedono ma hai 18 anni. Per comprare le sigle? Sì, o l'alcol? Per qualsiasi roba, cioè qualsiasi roba. Vabbè, che ti chiedono. Così giovane, sì, però sì. Molto bello. Sì. Vabbè, poi abbiamo invece, per uscire un po' più dall'istituzionale, abbiamo però sempre in questo cluster, sempre in questa, mestruazioni che anche qui variano. Sì. Tu quando le hai avute la prima volta? Ah, variano come età. In seconda media direi abbastanza standard, cioè era un periodo in cui nella mia classe più o meno ce le avevano tutte. Io terza. Terza media, sì. Credo che stiano venendo sempre prima. Prima. Non giratevi verso di me. Proprio come proprio come la prima volta, Fede. Sì. Cosa? La prima volta. Sì. Anche questo è un momento, come dire, che segna un po'. Sì, no, volevamo sapere quando hai avuto la tua prima volta. Noi ti abbiamo detto l'età delle nostre mestruazioni. Credo intorno ai 15-16 anni. 15 Vabbè, anni, dai, 16 anni. Un trend, sì, direi. Sì. Giovane, sì. Sì, 16 anni forse. Ora non... I don't recall. Ok. Poi però abbiamo la patente, vabbè, sì. E questo qua è quasi più sociale la patente, sì. Cioè il fatto che hai la patente è una svolta per la tua vita. O spam. Patentino a seconda. Esatto. Vabbè, la maturità, grande momento epico della vita. Che anche questo qua è molto strano perché arriva l'anno dopo che tu sei già maggiorenne, sì. Ed è però quella vera svolta della tua vita probabilmente. Adesso cosa faccio? Esatto, quindi dovrebbero far coincidere un po' di cose perché succedono tutte troppo vicine. Beh, sarebbe bello aver cercato per questa puntata, perché la maturità si chiama maturità, ma non l'abbiamo cercato. Vabbè, magari in pausa lo cerchiamo e poi torniamo da voi con la risposta. E poi dipende anche qui, cioè la maturità, cioè quando finisci il liceo o quello che è la scuola in tutto il mondo collegata a questa cosa qua, e avviene a età diverse. È vero, sì. Anche qua, cioè è molto vero. Strano. È vero. vabbè, ti accompagnano anche in modo diverso. 18 però, siamo noi 19, 18, sì, però sì, adesso siamo sì, sì, sì, 18. E poi leggo un ultimo punto che in qualche modo è un momento nostalgia della nostra prima puntata di debutto. Beh, il ballo delle debuttanti, ragazzi. Bam! Rieccoci. Possiamo fare un momento nostalgia? Certo. Era la prima nostalgia, puntata. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Non la so più, e tu? Ho scoperto che il mio microfono fa un suono. Infatti pensavo fosse io. Pensavo che fosse Zelle, okay, quello del, del barolo lì. Però anche... Ecco, benvenuti alla corrida, alla corrida! Adesso... adesso le scoregge con le scoregge con le ascelle. Abbiamo fatto tutto. Evviva noi proprio adulti. E adesso per così, come dire, celebrare questo momento. Mettiamo un pezzo che pezzone. È il pezzo delle giostre, sì. Questo è il pezzo del Kiss Express. Siete pronti a ballare o no? Nessuno risponderà, quindi rispondo io sì! Vai. E vi spariamo When I Grow Up delle Pussycat Dolls. When I Grow Up. What's up, sexy? And you don't care what they say. They say every time I turn around, they say your name. What's up, sexy? What's up, sexy? And you don't care what they say. They say every time I turn around, they say your name. Don't you? Now I've got a confession. Ha ha ha ha. When I was young, I wanted attention. Ha ha ha ha. Promise myself that I'd do anything. Ha ha ha ha. Anything at all for them to notice me. Ha ha ha ha. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Wanna know what your name is. Cause see when I was younger, I would say. When I grow up, I wanna be famous. I wanna be a star. I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world. Lasciamo andare? Vai, vediamo. Bene. Bello. Siamo riusciti a toccare il fondo. Sa che abbiamo l'eco. Bella, Nicole Schwenzinger. È ancora perché è uscito ancora buona. Sì, perché loro comunque questo pezzo qua, When I Grew Up, che anno sarà? 2007 mi pare. 2006-2007. E il adesso l'anno scorso è uscito un nuovo pezzo, le Pussycat Dolls, ma senza la Nicole. Con la Nicole, loro uguali al 2006, stesse buonissime, buonissime, stesse incredibili, spaccate, stesse robe e credo stessa canzone. Beh, le hanno probabilmente messe dentro un frigorifero, ritirate fuori. Sì, sì, beh, avevano fatto anche il reality show The Next Pussycat Dolls. È vero, non me lo ricordavo più. Ma poi io che ballavo ai tempi. Ti volevo fare la ballerina, esatto, le mie mosse. E seguivamo parecchio la situa là, certo. Ma erano mega grosse. Comunque ce n'è sempre una lì che è addetta alle spaccate, se voi ci fate caso. Loro ballano tutte, poi ce n'è una che sola. Lei è addetta alla spaccata, che si spacca. Sbram, bello. Sbram. Comunque è stato bello, raga. È sembrato di stare alla boom per un attimo. Ma infatti è stato bello, sì. Sì, difatti ci cacceranno da Zam. Esatto. Ma è arrivato il momento sigla, perché è arrivata la nostra rubrica. Yes. Giusto? Le altre notizie della settimana. Bello. Volevo farlo un po' più chill, ma non mi veniva la melodia, raga. Vabbè, ci sta. È così, è tutto, esatto. Procuriamoci uno xilofono. Va bene. Ma sì, certo. Un triangolo. Esatto. Ding, ding. Le altre notizie della settimana. Stai facendo shaming ai cinesi? Ah, mio Dio, è il secondo. No, è il secondo. No, raga, no, no. Hai detto le altre notizie della settimana. No, è il secondo. Così. No. Niente, no, io no, è no, la no, Hunziker e Jerry Scotti. Sì. Eccoci. Com'era il primo, il glande? Il glande tema. Il glande tema. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, quasi alla fine. Ma non vi abbandoniamo. Non vi abbandoniamo senza darvi qualche spunto di conversazione con i vostri amici per i prossimi giorni. Sì. Vabbè, allora, tutti i vostri amici maschi che seguono il calcio, ma anche le femmine, porette. Ma è una notizia grandissima, raga. Sì. Cioè, ma cosa, sembra una roba di cattivo. Ma poi niente di fatto. No, beh, sempre in realtà, nessuno sa di che cosa stiamo parlando. Sì, no, la Superlega del calcio. Calcio. Esatto. La Super Lega, esatto. Devo dire. La Super Lega del calcio. Che però, così debotto? Mm-hmm. Così dico? Sì. Allora, praticamente c'era un po' nell'aria, faccio un piccolo fallo. Esatto. C'era un po' nell'aria che questi grandi club, ossia i più ricchi club d'Europa, si stessero un po' mettendo d'accordo per far uscire questa cosa. Quindi una lega in cui, immaginatevi, i più ricchi di tutti competono in una competizione organizzata da loro. Tipo cattivissimo a me, esatto. Organizzata da loro, con uno sponsor grandissimo che è la banca JP Morgan, che è pronta a pagare 3,5 miliardi di dollari per questa cosa. E per fare una competizione in cui loro ci sono tutti gli anni e possono invitare altre squadre in base ai meriti sportivi e giocano infrasettimana. JP Morgan sempre dalla parte degli ultimi. Esatto, JP Morgan sempre. Cioè ci sono gli ultimi e lì di fianco JP Morgan sempre. Infatti c'è il Sassuolo. Allora vieni a prendere JP Morgan, vieni qui a dirmelo, Radio Zambiano su ti aspetta. Manda i tuoi avvocati JP Morgan. E quindi vogliono fare questa mega lega e ovviamente tutti quanti... Nel senso, io la penso, cioè proprio al di là del livello sportivo, cioè proprio a livello umano, esatto, a livello umano è una roba tremenda, perché il bello del calcio appunto è anche la, oggi leggevo che il bello del calcio è che dalla terza categoria alla Champions League le regole sono uguali per tutti, il calcio è quello, al di là sì, dei merito, soldi, cioè di... scusami, sì, è merito, ovvio ci sono i soldi, c'è tutto quanto così, però è bello, è bello anche, che certo, la Cenerentola di turno possa sfidare la mega premiata, certo, e batterla, no, perché è proprio quella la cosa che ci tira attaccati. Beh, ma ci sono un po' di storie di squadrette, no, che sì, Legnano sì, in Serie A, Legnano è stato in Serie A ma pochi anni fa, cioè senza tipo andare troppo lontano. Il Leicester, la squadra inglese, è riuscita a vincere il campionato, ed è una cosa sì, pazzesca, sì. Cioè immaginatevi come se appunto, non so, da noi il Sassuolo veramente vincesse il campionato, però avendo un sacco di Milan e un sacco di Juventus nel campionato. Ma quindi vabbè, niente di fatto però. Ma quindi cosa è successo? Loro hanno fatto l'annuncio, la UEFA, i campionati nazionali, tutti quanti hanno detto raga, se voi fate questa cosa sappiate che siete fuori dalla Champions League, i giocatori che giocano per le vostre squadre non possono andare in nazionale, cioè è una roba grossa, la UEFA si è messa proprio vabbè, di traverso. Ma non lo faranno, allora, ma chi lo sa, se hanno i contratti fatti, se hanno tutti questi soldi che li aspettano, perché è proprio una questione di come faccio, esatto, come faccio a cambiare il mondo del calcio e a fare ancora più soldi, io che sono i più ricchi di tutti. Ma tutta la mossa, qualcuno gliel'ha chiesto cosa ne pensa? No, non credo, perché tutta la mossa è stata organizzata da quel fango di Agnelli, ossia presidente della Juventus. Ah, che lui? Lui è stato un po' l'artefice di tutto questo, lui e Florentino Perez, che è il proprietario, diciamo, il presidente del Real Madrid. Tristezza, lotta di classe brutta. Lotta di classe brutta, e viva il calcio che ci piace a tutti quanti. Quindi va bene i soldi, ma teniamoci meno. Un po' di anche esatto. Meno. O dateli a noi, che va bene. Sì, esatto. Che compriamo un microfono a Marzia. Va bene. Poi cos'è? sono qua sempre con quello scrauso. Allora, in Inghilterra sono successe un sacco di cose. Hanno riaperto. In Inghilterra sono successe un sacco di cose. Notizia dopo. No, niente, è successo che hanno riaperto i pub, hanno riaperto i ristoranti, solo fuori. Non hanno neanche l'obbligo della mascherina, raga. No. Ah, loro non ce l'hanno mai avuto. Notizia bellissima, vero. Un nostro ex collega ci ha detto che si è preso 3 giorni di ferie per la riapertura. Si è preso 3 giorni, 3 ferie. Per i pub. Esatto, perché erano riaperti i pub, quindi sono presi 3 giorni di ferie. Bello. Ma in realtà su NTS la mattina raccontavano l'altro giorno della gente piegata post pub. Sì. Gente che vomitava in giro per Londra. Al lavoro. Beh, esatto. Classic. Vabbè, poi è morto, e mentre aprivano tutti i pub, esatto, e la gente festeggiava. È venuto a mancare il principe Filippo, che stava per compiere 100 anni. No. 100 anni, sì, da qui a poco, non so quando è il suo compleanno, però insomma nel 2021 io l'avrebbe convinto compiuto, l'avesse 100. Già compiuti, no, 99, era lì e niente, hanno fatto questa hanno fatto il funerale sabato, foto tristissime della regina da sola nel suo banchetto. Sinceramente non ho capito perché l'hanno messa da sola, voglio dire, ho capito il distanziamento COVID, ma raga, da cazzo, sola. Due banchi, esatto. In metro c'è scritto non sederti qui, non sederti lì, poi ti si può e sedere. Poi ti puoi sedere. La regina da sola, infatti, in prima raga, fila. Che drama lì. Tra l'altro dicevano che la BBC aveva un accordo con i Royal per non inquadrarla troppe volte durante la cerimonia. Ah, infatti sì. Non l'hanno tipo mai inquadrata. E c'era anche la notizia della BBC che si è presa una marea di reclami perché hanno cancellato un sacco di programmi per mandare in diretta al funerale, e la gente ha detto va bene che è morto, raga, ok, che era il principe, tutto quanto, però cioè mi avete tolto la finale di Masterchef, tipo 100.000 reclami hanno ricevuto quel giorno. Beh, dai, cazzo, Masterchef. 100.000 reclami. Dai, Filippo, insomma, te la sei vissuta, esatto. Non è che 100.000 reclami in un giorno, nemmeno. Sì, comunque da quando ho visto The Crown, è vero che l'ho visto, me lo sono vista tipo in 2 settimane, 60.000 stagioni, quindi ero un po' drogata alla fine, però faccio fatica a capire che cos'è realtà e che cosa non lo è. Questo perché nella vita o nella... No, cioè quando penso ai Royals. Dopo e da quando ho finito di The Crown non riesco più a capire, ma voi siete reali o siete dei reali? Esatto, in quella mattina vorrei andare a camminare sulle montagne in Scozia a sparare dei cervi. Marzia. Vabbè. On ayahuasca si chiama questa puntata. Ma da dei reali ad altri reali. Esatto, il passo è ben breve. E arriviamo a San Siro dunque. Esatto, vi avevamo fatto sentire qualche mese fa, perché andiamo in onda ogni 2 settimane, sì. Quindi qualche mese fa, il pezzone totale che era appunto 7-0 il covidozzo. Il pezzone totale che era appunto stato 7-0 di tutta la cricca di ragazzi. Era quello che faceva 7-0. Esatto. 7-0. E quindi cosa è successo? Settimana scorsa uno dei membri del gruppo. Scusa, appunto, quindi zona 7 Milano. Zona 7 Milano, sì, San Siro. Davide è un po' più su. Esatto. Davide è un po' più, no, un po' più giù. E poco proprio lì vicino. E cosa è successo? Praticamente per girare il video di Neyma Ezza, che è un membro della clique, della gang, hanno fatto questi ragazzi molto giovani, ricordiamolo, tutti meno di 20 anni, hanno fatto un annuncio sui social dicendo: raga, oggi giriamo il video di appunto del nuovo brano di Neyma Ezza, presentatevi tutti in Piazza Selinunte che facciamo il bordello, no? Il problema è stato che effettivamente la gente ci è andata veramente in piena zona, era ancora zona rossa forse Milano, sì, era ancora zona rossa, e quindi si sono trovati praticamente 300 ragazzini insomma, per essere parte di questa come comparsa all'interno del video di Neymar. E il problema è stato che ovviamente si è creato un certo assembramento, no? Sì. Solo che da assembramento Sala non era contento. Sala non era contento, anche se dopo ha postato due giorni dopo, ha postato le foto con Rondo da Sosa su Instagram. No, comunque ma perché comunque raga devono fare pace, cioè alla fine non erano contenti, sono arrivata la pura. È arrivata un sacco di polizia, fumogeni, scontri, baby Sconti. Gang che diceva, esatto, il baby gang che diceva "Oh raga, se arrivano gli sbirri nessuno si muove, eh?" E quindi si è creata una certa tensione. Tutto questo per dire che siamo dalla parte sicuramente di Neymar e Ezza per la libertà di espressione e tutto quanto, però devi anche considerare che se hai un certo, diciamo, peso a livello sociale mediatico, possiamo dire che non è adulto? Non è troppo da adulti, perché soprattutto per la situazione in cui siamo, cioè fosse stato un altro momento, eravamo tutti con te, anzi a andare contro anche volentieri alla polizia eventualmente. Sì. Però lì, cioè, comunque tutti i ragazzini erano piccoli, cioè erano alcuni piccolissimi. E tra l'altro l'album non si chiama mica Perif. Sì. Il suo primo progetto è Perif. Perif, per periferia. Si chiama Casa, mi pare. Del genere, città. Cioè, alla fine comunque non un'esistenza facile. No, le periferie, raccontano quello, raccontano l'altro. Cioè, comunque ci può stare che invece tutte le notizie del weekend erano sui ragazzi. Ma tra l'altro, sulla stessa onda di questo, qualche settimana prima a Bruxelles, patria del radical chic, per il primo aprile un'agenzia di comunicazione aveva organizzato un evento in un parco per dire raga facciamo una festa, ma era il primo pesce d'aprile. Mica raga, pieno di gente. La gente è stata veramente. Sì, ma poi è arrivata la pula con antisommossa, idranti. Sì. Quando arriva la pula voi non vi muovete. Però in francese. Quelle police arrive ferme. Ferme. Quelle police arrive ferme. Perché non sommes conigli. Dai, bravo. Non lo so il francese, me lo sono appena inventato. Va bene. Vabbè, arriviamo all'ultima notizia, che era appunto notizia freschissima, tra l'altro, perché di ieri notte, come potete ben sapere, la Cina è avanti anni luce, hanno già risolto il Covid, loro si stanno già preparando per la prossima pandemia. E cosa hanno fatto? No, non fa parte dello shaming Asian, anche questo. Era solo per dire quanto sono avanti i cinesi. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno fatto questo evento per lanciare un prodotto di una casa di gaming cinese. E praticamente con 1500 droni hanno ricreato un QR code nel cielo che le persone potevano scannerizzare direttamente dalla loro casa. Quindi andatevi a cercare queste immagini perché sono pazzesche, anche un po' distopiche, anche un po' particolari, però una trovata pubblicitaria sicuramente interessante. Ma ne avevamo bisogno? Non avevamo bisogno, nel senso che spero che tutti i cieli della mia città non siano pieni di QR code, però è una trovata, secondo me. Cioè, preferisco ancora le stelle ai droni. Bella! Mamma mia. Poi dite che sono un'isola. Invece sei un cielo stellato, sopra di noi. Vabbè, di dai. Va bene, basta. Queste erano le notizie della settimana, che qualcuno è un po' più vecchia, qualcuno un po' più nuova, però che vi potete rigiocare con i vostri amici. Parlerete di 7O o parlerete di QR code, noi non lo sappiamo, ma se quando lo fate fateci sapere come Avevamo due pezzi pronti per chiudere. Ma possiamo anche metterne uno e mandarli tutti a fare in culo. Esatto. Dai. Ma vogliamo scegliere uno dei due che abbiamo pronti o vogliamo mettere 7O? Ah, così? Beh, io forse lo metterei per pagare il rispetto. Ma quindi salutiamo, raga? Sì, salutiamoci. Ok, dai, salutiamo. Ragazzi, ci anche vediamo perché presto. Qui comunque il coprifuoco sussiste. Sì, esatto, noi ci siamo dimenticati di dire che il 26 aprile in teoria apriamo anche noi, apre anche l'Italia, almeno le regioni in zona gialla o che avranno la zona gialla potranno riaprire. Quindi in giro per Milano, non so se vi siete accorti, ma in giro per Milano c'è un botto di gente, cioè di locali che stanno facendo fremendo, quindi sono lì che tutti lavano i loro tavolini, lavano, pieno di... Noi pronti. Sì, l'estate scorsa c'erano un botto di Dior, quest'anno raga... chiamateci Dior, di come Dior, sì. e non come Dior, e non come Domodossola. Raga, assolutamente alla gara dello spelling, quando chiamate per farvi cambiare i voli, di come Dior. E insomma, basta. Secondo me la città freme. Safem, la città freme. Ciao, raga, ciao. Ci vediamo tra un paio di settimane. Yes. Bye. Baci. Lasciamo. Senti. Sentila. Come sale. La mia merda ti fa come l'attapis. Se si c'è sulla nonna fa traffici. Manuale, no auto, cambia autocrino. E se lo fa rimane sui CD. Sopre, no, popo, jojo. Giovanni, bianca e coco. Demoni, zona, no gioco. Omicidi, zamagna, luogo. Shori vuole i miei money, anche se fuori c'è caffè o bamba. Big man, faccio sempre Wakanda. Big plan, sono in strada, c'è bossa. Roadman, non giocare con noi. Abbiamo il quartiere dietro, dentro la torre di Serinunte. Diventerò un grattacielo. Ruffles come Manhattan, San Siro, Gotham City senza Batman. Haram, soldi haram, vodka presa da Bangla. Questa lo muove per tutta la squadra. T-Max, i miei fanno rally, really, ready? Che cazzo ti credi? Assalto sopra l'asfalto, piazza di sede, stessi in Bagdad. Non rispettiamo lo standard. Palla in bocca come Batman. Da una panca ma non basta. Arriva il pieno dal Barça. Sette la banda. Belti, siamo perfidi dal popo. Medellino che non è un film, duri poco. Vengo dalla Seven Zone. Sto con i miei potomi. Casa è stu casa. Welcome to the mania. Figli della street. Sei diavoli sopra il beat. San Siro, Medellin. Noi siamo ancora qui. Lo stadio, prego per uno. Seven Zone. Salam aleikum, big man. Scendo dal range e vuoi. Big boss, big stock. Tutti sti rapper deep trot. Sono più soldi non stop. Giovane stella, young star. Farabutti, risolvo la puni. Paracode in gocce, fanno sogni lunghi. Io non parlo tanto, Seven Zone la ganga. Tu fraparla troppo, quindi stai alla larga. Cucita, schi tipo Ouija. Giro di notte come show con Dija. Rapper pacco, sei la mia capocchia. Sembra che hai recato con una pannocchia. Stando sopra un autosport, faccio io lo show. E tu c'ha uno shock. Non mi chiedere cosa hai fatto, tanto sai già che non ho parlato. Non ci serve dire altro, arriva la serve già riservato. Tu fai gok ma non sei in un block, sei solamente un codice errato. Ok, due bei conti nella tasca, ma rap tu si dal caffè l'Homa. Poi la tocca ma non ti ha portato a pagare i problemi a una bambina in culla. La tua gente si crede blues ultra, quattro resta ferma della Clio. Avessero capito subito giungla, adesso sarebbero con Seven Zone. Vengo dalla Seven Zone, sto con i miei potomi. Casa è stu casa, welcome to the mania. Figli della street, sei diavoli sopra il beat. San Siro, Medellin, noi siamo ancora qui. Seven Zone, San Siro, lo stadio, prego per uno. Seven Zone.